do fim. Do fim. Comecei a ver. Da quanto tempo sei lì? Proprio una brava moglie, oh tu figlio, tu figlio, tu figlio, oh tu figlio, tu figlio, tu figlio, tu figlio. Lasciami l'asciugamano. Quello bianco lì sul divano.